L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre. C'è chi si è inventato la libreria come farmacia, chi ha fatto della libreria uno spazio per incontri. A Venezia tre ragazzi hanno inventato la bibliodiversità. Ma ci sono librerie che sempre più chiudono i battenti. Si è fatto parlare di sé la libreria storica Paravia a Torino, la seconda più antica d'Italia. Ci sono davvero tante serrande che si abbassano. Tutta colpa solo degli acquisti online? E noi cosa perdiamo o cosa guadagniamo? Bentornati da Anna Migliorati. Il primo numero da cui partiamo questa settimana è che l'editoria italiana, però dati di ieri, si rafforza nel 2019. Crescono il fatturato più 4,9% e non accadeva dal 2010 e crescono le copie vendute più 3,4%. Il settore torna così a un giro d'affari che sfiora il 1,5 miliardi, ebook compresi. Le copie fisiche vendute nel 2019, cioè i veri e propri libri, sono stati 90 milioni, erano 109 milioni 10 anni fa. La domanda è: dove li compriamo e cosa ci fa scegliere? Salutiamo questa settimana Paolo Ambrosini, presidente dell'Associazione Librai. Quante sono le librerie in Italia, più o meno? E soprattutto quante erano 10 anni fa? L'analisi che noi abbiamo condotto sui dati Istat porta ad una oscillazione negativa dal 2012 al 2017 di circa 2.300 punti vendita tra librerie e cartolibrerie, che nei piccoli paesi, nei quartieri, sono un presidio commerciale per il libro importante. Parlando di dati Istat, visto che li ha citati anche lei, qualche numero glielo do anch'io. Nel 2007 circa 8 libri su 10 si vendevano in libreria, poco meno di 2 nei supermercati o nella grande distribuzione. L'online era all'epoca ancora una novità, aveva circa il 3,5% del mercato. 10 anni dopo, 7 libri su 10 si comprano in libreria, ma 1 su 4, ormai circa il 24%, si compra online. Un altro mondo, cosa è cambiato? Segnala una richiesta di servizio da parte dell'utente, di comodità, che purtroppo non sempre le nostre aziende riescono a fornire, ma questo non perché non vogliono farlo, ma perché alle nostre spalle noi abbiamo una distribuzione del libro efficiente, come invece sarebbe necessario per poter garantire quella velocità che oggi il consumatore giustamente richiede. E faccio un piccolo esempio: il 13 di dicembre ho fatto un riassortimento dei libri. Quest'ordine me l'ha fatto arrivare il 4 di gennaio. Ora, c'è piccolo dettaglio che dentro quell'ordine c'erano richieste di clienti per regali di Natale. Capisce anche lei che non c'è partita. C'è una logistica dietro che è velocissima nell'online e molto capillare. Nel commercio tradizionale siamo rimasti a dei modelli, posso dire, dello scorso secolo? Lo dice lei, io lo sostengo da tempo, e soprattutto perché oggi ci troviamo a dover gestire una gran mole di referenze, perché lei sa che la produzione nazionale di titoli nuovi messi nel mercato è enorme e quindi è impossibile tenerli dentro. Anche la più grande libreria italiana non riuscirebbe a contenerli tutti, e quindi necessariamente la logistica e la distribuzione sono dei punti fondamentali. Si è molto discusso nelle ultime settimane di librerie storiche che chiudono, che abbandonano, e poi ci sono invece le nuove librerie che si inventano un po' di tutto, dal caffè insieme al libro all'offerta di altri prodotti più o meno similari. La professione del libraio che valore aggiunto ha nel XXI secolo? Non si limita solo nel distribuire il libro. Occorre chiaramente essere preparati, conoscere ciò che si propone al cliente, ma non possiamo sottacere problemi legati alle concentrazioni verticali che ci sono all'interno della nostra filiera, caso unico a livello europeo. Le grandi catene, che sono l'altro elemento del mercato italiano. Sì, non solo le catene, ma anche proprio il fatto che l'editore controlla la distribuzione intermedia, controlla i punti vendita finale, e quindi è chiaro che diventa molto difficile la competizione, soprattutto se è una competizione molto giocata sul prezzo, come è nel nostro mercato. Noi abbiamo vigente una legge che consente di scontare il 50% del margine lordo di un'azienda libraria, già lo stesso che il libro viene prodotto, se è un libro di lettura, e fino al 90-95% se è un libro di scuola. Quindi lei capisce che è molto difficile mantenere in piedi un'azienda con questo tipo di concorrenza. Certo, noi ci mettiamo tutta la passione, tutta la determinazione, però è dura, ecco. Grazie. E come se non bastasse, c'è poi anche la pirateria. Secondo una ricerca Ipsos, sottrae al mondo del libro 528 milioni di euro all'anno, che tradotto sono 29 milioni di copie in meno vendute. Chi sono i pirati? Ricordiamocelo, siamo noi. Oltre un italiano su tre ha compiuto almeno un atto di pirateria in campo editoriale nell'ultimo anno. Piccole cose crescono con Marco Gambaro. È una piccola economia davvero destinata a scomparire, quella delle librerie? No, non credo. Le librerie sono un luogo di aggregazione importante e i libri continuano a essere un centro di attrazione e di riferimento. Peraltro, negli Stati Uniti, in un mercato un po' più avanti del nostro probabilmente, si registra negli ultimi 10 anni una crescita delle librerie indipendenti. Tutti scrivevano e dicevano che erano destinate a scomparire, e invece queste librerie sono riuscite a costruirsi un ruolo nelle comunità e a quasi raddoppiare di numero negli ultimi 10 anni. Naturalmente devono essere molto attive, molto attente all'assortimento, molto capaci di proporre i libri al singolo lettore. Ecco, il libro, la libreria, un po' come i quotidiani, come il giornale cartaceo, diciamo, nell'immaginario sono destinati a scomparire, in realtà non stanno mai scomparendo. Beh, i vecchi mezzi scompaiono con grande difficoltà, in fondo oggi sopravvive ancora il teatro, che pure è stato attaccato dal cinema e dalla televisione e da tanto altro. Per quanto riguarda i libri, questi sono stati sconvolti dal turbine internet, diciamo così, ma meno di quanto riguarda altri settori come i giornali o la musica, per esempio, che sono stati completamente trasformati. I libri hanno resistito di più, probabilmente perché la forma libro è non facilissima da sostituire, tant'è vero che i libri elettronici hanno avuto una diffusione, ma la loro diffusione si è fermata nei vari mercati alla fin fine al 20-25-15%, e dopodiché c'è stato il grande turbine di Amazon, che ha cambiato i sistemi distributivi. Effettivamente la comodità di accesso, la possibilità di trovare tutti i titoli, cose che nelle librerie tradizionali non si trovano. Però è distribuzione, l'oggetto è rimasto, ci sono delle cose nuove, bisogna per esempio guardare con attenzione agli audiolibri, e probabilmente cambierà il modo con cui gli autori e gli editori si pongano. Io penso che ci sarà una trasformazione simile un po' a quella dell'industria musicale nella costruzione dei personaggi, e gli editori dovranno imparare a occuparsi anche di quelli. Ecco, il paradosso in qualche modo è che l'acquisto in libreria e l'acquisto online potrebbero essere due mercati in fin dei conti che si rivolgono a persone diverse e possono coesistere, ma la verità è che il numero dei lettori è quello. Dobbiamo ricordarci che in fondo gli elementi chiave per la diffusione popolare del libro, cioè i generi di intrattenimento un po' più leggero, la fantascienza, i gialli, sono entrati nelle librerie solo negli anni Ottanta, perché fino a prima non erano presenti nelle librerie. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre. Alla prossima settimana, ma si fermerà davvero la crescita dell'online, o invece potrà mai superare davvero il fattore umano? Per parlarne passiamo dall'altra parte della barricata, lo chiediamo questa volta ad un esperto invece di social. Grazie per essere con noi, Giulio Xaetta, autore tra le altre cose di Contaminati. Benvenuto. Grazie, ciao Anna. Ebook, libro fisico, libreria o libreria virtuale, quanto pesa ancora oggi il fattore umano? Fattore umano pesa tanto, e in un certo senso pesa più del passato. Ti faccio un esempio, che è l'Apple Store. Gli Apple Store per molte persone hanno pesato forse quanto l'iPhone nella cavalcata di Apple verso la valutazione del miliardo di dollari. E perché il punto è questo: se noi riusciamo a gestire, a manovrare bene qualcosa che è tangibile, che è fisico, come un negozio, delle persone che stanno all'interno, ci guadagniamo un valore aggiunto. Che cosa ci attrae in un libro, anche in un sistema appunto così tecnologico? Qual è ancora il fascino che non si riesce ad infrangere con altri sistemi? Sicuramente non è il fascino del libro in sé, perché il libro è una tecnologia che possiamo utilizzare, che possiamo fruire in diverse modalità. Quello che ci piace è poter entrare in un luogo che ha un fascino in sé, una storia delle persone e che ha una personalità. Il concetto dell'esperienza è importante, tant'è che molte librerie che non hanno personalità chiudono, che non hanno una storia forte chiudono, che gli store, gli iperstore, i supermarket, dove comprare un libro sembra comprare un pomodoro, non mi dà un'esperienza, e quindi perché devo andare a comprare un libro in un supermarket? Preferisco Amazon, che è più rapido, efficiente e veloce. Immaginiamo un'ipotetica partita a scacchi, dovendo scegliere un libro e consigliare cosa leggere. Tra un algoritmo e un libraio, chi vince? In velocità, per i gusti principali della persona, vince l'algoritmo. Giocando invece sul terreno della versatilità, del dare qualcosa di inaspettato, qualcosa che magari la persona viene consigliato sul fatto ti propongo questo libro che non è il libro che potresti leggere tipicamente, ma un libro che potrebbe forse piacerti, anche se diverso, distinto dai tuoi gusti canonici. In quel caso la piacevolezza inaspettata, la novità, vince il libraio. 1-1, velocità contro sorpresa, grazie a voi la scelta, ovviamente, è l'economia che cambia anche nelle piccole cose. Per raccontarvela ci ritrovate sabato prossimo qui, e se volete scoprire altro, come sempre, www.radio24.it, l'economia delle piccole cose. Grazie in regia Andrea Roccabella e Paolo Corleoni, buon libro a tutti da Anna Migliorati.